Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Poco dopo entrò il curato del paese e disse d'essere mandato dal cardinale a informarsi di Lucia, ad avvertirla che Monsignore voleva vederla in quel giorno e a ringraziare in suo nome il sarto e la moglie. E questi e quella, commossi e confusi, non trovavano parole per corrispondere a tali dimostrazioni di un tal personaggio. «E vostra madre non è ancora arrivata?» disse il curato a Lucia. «Mia madre!» esclamò questa. Dicendole poi il curato che l'aveva mandata a prendere d'ordine dell'arcivescovo, si mise il grembiule agli occhi e diede in un dirotto pianto che durò un pezzo dopo che fu andato via il curato. Quando poi gli affetti tumultuosi che le si erano suscitati a quell'annunzio cominciarono a dar luogo a pensieri più posati, la poverina si ricordò che quella consolazione, allora così vicina, di riveder la madre, una consolazione così inaspettata poche ore prima, era stata da lei espressamente implorata in quelle ore terribili e messa quasi come una condizione al voto. «Fatemi tornar salva con mia madre», aveva detto, e queste parole le ricomparvero ora distinte nella memoria. Si confermò più che mai nel proposito di mantenere la promessa e si fece di nuovo e più amaramente scrupolo di quel «povera me» che le era scappato detto tra sé nel primo momento. Agnese, infatti, quando si parlava di lei, era già poco lontana. È facile pensare come la povera donna fosse rimasta a quell'invito così inaspettato e a quella notizia, necessariamente tronca e confusa, di un pericolo, si poteva dire, cessato, ma spaventoso, di un caso terribile che il messo non sapeva né circostanziare né spiegare. E lei non aveva che attaccarsi per rispiegarlo da sé. Dopo essersi cacciate le mani nei capelli, dopo aver gridato più volte «Ah, Signore! Ah, Madonna!», dopo aver fatte al messo varie domande alle quali questo non sapeva che rispondere, era entrata in fretta e in furia nel baroccio, continuando per la strada a esclamare e interrogare senza profitto. Ma a un certo punto aveva incontrato Don Abbondio che veniva adagio, mettendo avanti a ogni passo il suo bastone. Dopo un «Oh!» di tutte e due le parti, lui s'era fermato. Lei aveva fatto fermare ed era smontata. E s'era tirata in disparte in un castagneto che costeggiava la strada. Don Abbondio l'aveva ragguagliata di ciò che aveva potuto sapere e dovuto vedere. La cosa non era chiara, ma almeno Agnese fu assicurata che Lucia era affatto in salvo e respirò. Dopo, Don Abbondio era voluto entrare in un altro discorso e darle una lunga istruzione sulla maniera di regolarsi con l'arcivescovo se questo, come era probabile, avesse desiderato di parlare con lei e con la figliuola e soprattutto che non conveniva far parola del matrimonio. Ma Agnese, accorgendosi che il brav'uomo non parlava che per il suo proprio interesse, l'aveva piantato senza promettergli, anzi senza risolver nulla, che aveva tutt'altro da pensare, e s'era rimessa in strada. Finalmente il baroccio arriva e si ferma alla casa del sarto. Lucia s'alza precipitosamente, Agnese scende e dentro di corsa. Sono nelle braccia l'una dell'altra. La moglie del sarto, che era la sola che si trovava lì presente, fa coraggio a tutte e due, le acquieta, si rallegra con loro e poi, sempre discreta, le lascia sole, dicendo che andava a preparare un letto per loro, che aveva il modo senza incomodarsi, ma che in ogni caso, tanto lei come suo marito, avrebbero piuttosto voluto dormire in terra che lasciarle andare a cercare un ricovero altrove. Passato quel primo sfogo d'abbracciamenti e di singhiozzi, Agnese volle sapere i casi di Lucia e questa si mise affannosamente a raccontarglieli. Ma, come il lettore sa, Era una storia che nessuno la conosceva tutta, e per Lucia stessa c'erano delle parti oscure, inesplicabili affatto. E principalmente quella fatale combinazione d'essersi la terribile carrozza trovata lì sulla strada, per l'appunto, quando Lucia vi passava per un caso straordinario. Su di che la madre e la figlia facevan 100 congetture, senza mai darne il segno, anzi, senza neppure andarci vicino. In quanto all'autor principale della trama, tanto l'una che l'altra non potevano fare a meno di non pensare che fosse Don Rodrigo. Oh, anima nera, tizzone d'inferno, esclamava Agnese. Ma verrà la sua ora anche per lui. Domine Dio lo pagherà secondo il merito e allora proverà anche lui. No, no, mamma, no, interruppe Lucia. Non gli augurate di patire, non lo augurate a nessuno. Se sapeste cosa sia il patire, se aveste provato. No, no, preghiamo piuttosto Dio e la Madonna per lui. Che Dio gli tocchi il cuore, come ha fatto a quest'altro povero signore che era peggio di lui e ora è un santo. Il ribrezzo che Lucia provava nel tornare sopra memorie così recenti e così crudeli la fece più di una volta restare a mezzo. Più di una volta disse che non le bastava l'animo di continuare e dopo molte lacrime riprese la parola a stento. Ma un sentimento diverso la tenne sospesa a un certo punto del racconto, quando fu al voto. Il timore che la madre le desse dell'imprudente e della precipitosa e che, come aveva fatto nell'affare del matrimonio, mettesse in campo qualche sua regola larga di coscienza e volesse fargliela trovar giusta per forza, o che, povera donna, dicesse la cosa a qualcheduno in confidenza, se non altro per aver lume e consiglio, e la facesse così divenir pubblica, cosa che Lucia, solamente a pensarci, si sentiva venire il viso rosso. Anche una certa vergogna della madre stessa, una ripugnanza inesplicabile a entrare in quella materia. Tutte queste cose insieme fecero che nascose quella circostanza importante, proponendosi di farne prima la confidenza al padre Cristoforo. Ma come rimase allorché, domandando di lui, si sentì rispondere che non c'era più, che era stato mandato in un paese lontano, lontano, in un paese che aveva un certo nome. E Renzo, disse Agnese. È in salvo? Né vero? Disse ansiosamente Lucia. Oh, questo è sicuro, perché tutti lo dicono. Si tien per certo che si sia ricoverato sul Bergamasco, ma il luogo proprio nessuno lo sa dire. E lui finora non ha mai fatto saper nulla. Che non abbia ancora trovato la maniera. Ah, sei in salvo, sia ringraziato il Signore, disse Lucia. E cercava di cambiare discorso, quando il discorso fu interrotto da una novità inaspettata, la comparsa del cardinale arcivescovo. Questo, tornato di chiesa dove l'abbiamo lasciato, sentito dall'innominato che Lucia era arrivata sana e salva, era andato a tavola con lui, facendoselo sedere a destra, in mezzo a una corona di preti che non potevano saziarsi di dare occhiate a quell'aspetto così ammansato senza debolezza, così umiliato senza abbassamento, e di paragonarlo con l'idea che da lungo tempo s'eran fatta del personaggio. Finito di desinare, loro due s'eran ritirati di nuovo insieme. Dopo un colloquio che durò molto più del primo, l'innominato era partito per il suo castello su quella stessa mula della mattina, e il cardinale, fatto chiamare il curato, gli aveva detto che desiderava d'esser condotto alla casa dove era ricoverata Lucia. «Oh, monsignore!» aveva risposto il curato. «Non si incomodi! Manderò io subito ad avvertire che venga qui la giovine, la madre, se è arrivata, anche gli ospiti, se monsignore li vuole, tutti quelli che desidera vossignoria illustrissima». «Desidero d'andare io a trovarli», aveva replicato Federico. «Vossignoria illustrissima non deve incomodarsi, manderò io subito a chiamarli, è cosa d'un momento», aveva insistito il curato guastamestieri, buon uomo del resto, non intendendo che il cardinale voleva con quella visita rendere onore alla sventura, all'innocenza, all'ospitalità e al suo proprio ministero di un tempo. Ma avendo il superiore espresso di nuovo il medesimo desiderio, l'inferiore si inchinò e si mosse. Quando i due personaggi furono veduti spuntar nella strada, tutta la gente che c'era andò verso di loro e in pochi momenti n'accorse da ogni parte, camminando loro ai fianchi chi poteva e gli altri dietro alla rinfusa. Il curato badava a dire: «Via, indietro, ritiratevi, ma...» Federico gli diceva: «Lasciateli fare», e andava avanti, ora alzando la mano a benedire la gente, ora abbassandola ad accarezzare i ragazzi che gli venivano tra i piedi. Così arrivarono alla casa e c'entrarono. La folla rimase ammontata al di fuori. Ma nella folla si trovava anche il sarto, il quale era andato dietro come gli altri, con gli occhi fissi e con la bocca aperta, non sapendo dove si riuscirebbe. Quando vide quel dove inaspettato, si fece largo, pensate con che strepito, gridando e rigridando: «Lasciate passare chi ha da passare!» Ed entrò. Agnese e Lucia sentirono un ronzio crescente nella strada. Mentre pensavano cosa potesse essere, videro l'uscio spalancarsi e comparire il porporato col parroco. «È quella?» domandò il primo al secondo, e a un cenno affermativo andò verso Lucia, che era rimasta lì con la madre, tutte e due immobili e mute dalla sorpresa e dalla vergogna. Ma il tono di quella voce, l'aspetto, il contegno e soprattutto le parole di Federico l'ebbero subito rianimate. «Povera giovine», cominciò, «Dio ha permesso che foste messa a una gran prova, ma va anche fatto vedere che non aveva levato l'occhio da voi, che non v'aveva dimenticata. Va rimessa in salvo e si è servito di voi per una grande opera, per fare una gran misericordia a uno e per sollevare molti nello stesso tempo». Qui comparve nella stanza la padrona, la quale al rumore s'era affacciata anch'essa alla finestra e, avendo veduto chi le entrava in casa, aveva sceso le scale di corsa dopo essersi raccomodata alla meglio, e quasi nello stesso tempo entrò il sarto da un altro uscio. Vedendo avviato il discorso, andarono a riunirsi in un canto, dove rimasero con grande rispetto. Il cardinale, salutatili cortesemente, continuò a parlar con le donne, mescolando ai conforti qualche domanda per vedere se nelle risposte potesse trovare qualche congiuntura di far del bene a chi aveva tanto patito. «Bisognerebbe che tutti i preti fossero come Vossignoria, che tenessero un po' dalla parte dei poveri e non aiutassero a metterli in imbroglio per cavarsene loro», disse Agnese, animata dal contegno così familiare e amorevole di Federico e stizzita dal pensare che il signor Don Abbondio, dopo aver sempre sacrificati gli altri, pretendesse poi anche di impedir loro un piccolo sfogo, un lamento con chi era al di sopra di lui, quando per un caso raro n'era venuta l'occasione. «Dite pure tutto quello che pensate», disse il cardinale, «parlate liberamente. Voglio dire che se il nostro signor curato avesse fatto il suo dovere, la cosa non sarebbe andata così». Ma facendole il cardinale nuove istanze perché si spiegasse meglio, quella cominciò a trovarsi impicciata a dover raccontare una storia nella quale aveva anch'essa una parte che non si curava di far sapere, specialmente a un tal personaggio. Trovò però il verso da accomodarla con un piccolo stralcio. Raccontò del matrimonio concertato, del rifiuto di Don Abbondio. Non lasciò fuori il pretesto dei superiori che lui aveva messo in campo, Agnese. E saltò all'attentato di Don Rodrigo e come, essendo stati avvertiti, avevano potuto scappare. «Ma sì», soggiunse e concluse, «scappare per inciamparci di nuovo. Se invece il signor curato ci avesse detto sinceramente la cosa e avesse subito maritati i miei poveri giovani, noi ce ne andavamo via subito, tutti insieme, di nascosto, lontano, in luogo che neanche l'aria non l'avrebbe saputo. Così si è perduto tempo ed è nato quel che è nato. Il signor curato mi renderà conto di questo fatto, disse il cardinale. Oh, no, signore, no, signore, disse subito Agnese. Non ho parlato per questo. Non lo gridi, perché già quel che è stato, e poi non serve a nulla. È un uomo fatto così. Tornando il caso, farebbe lo stesso. Ma Lucia, non contenta di quella maniera di raccontare la storia, soggiunse: anche noi abbiamo fatto del male. Si vede che non era la volontà del Signore che la cosa dovesse riuscire. Che male avete potuto fare voi, povera giovine, disse Federico. Lucia, malgrado gli occhiacci che la madre cercava di farle alla sfuggita, raccontò la storia del tentativo fatto in casa di Don Abbondio e concluse dicendo: abbiamo fatto male e Dio ci ha castigati. Prendete dalla sua mano i patimenti che avete sofferti e state di buon animo, disse Federico, perché chi avrà ragione di rallegrarsi e disperare se non chi ha patito e pensa ad accusare se medesimo? Domandò allora dove fosse il promesso sposo e, sentendo d'Agnese, Lucia stava zitta, con la testa e gli occhi bassi, che era scappato dal suo paese, ne provò e ne mostrò maraviglia e dispiacere e volle sapere il perché. Agnese raccontò alla meglio tutto quel poco che sapeva della storia di Renzo. «Ho sentito parlare di questo giovine», disse il cardinale. «Ma come mai uno che si trovò involto in affari di quella sorte poteva essere intrattato di matrimonio con una ragazza così?» «Era un giovine da bene», disse Lucia, facendo il viso rosso, ma con voce sicura. «Era un giovane quieto, fin troppo», soggiunse Agnese. «E questo lo può domandare a chi si sia, anche al signor curato. Chissà che imbroglio avranno fatto laggiù, che cabale. I poveri ci vuol poco a farli comparir birboni». «È vero, purtroppo», disse il cardinale. «Mi informerò di lui senza dubbio». E fattosi dire nome e cognome del giovine, ne prese l'appunto su un libricin di memorie. Aggiunse poi che contava di portarsi al loro paese tra pochi giorni e che allora Lucia potrebbe venir là senza timore e che intanto penserebbe lui a provvederla di un luogo dove potesse essere al sicuro finché ogni cosa fosse accomodata per il meglio. Si voltò quindi ai padroni di casa, che vennero subito avanti. Rinnovò i ringraziamenti che aveva fatti fare dal curato e domandò se sarebbero stati contenti di ricoverare per quei pochi giorni le ospiti che Dio aveva loro mandate. «Oh sì, signore», rispose la donna con un tono di voce e con un viso che esprimeva molto di più di quella asciutta risposta strozzata dalla vergogna. Ma il marito, messo in orgasmo dalla presenza di un tale interrogatore, dal desiderio di farsi onore in un'occasione di tanta importanza, studiava ansiosamente qualche bella risposta. Raggrinzò la fronte, torse gli occhi in traverso, strinse le labbra, tese a tutta forza l'arco dell'intelletto, cercò, frugò, sentì di dentro un cozzo di idee monche e di mezze parole, ma il momento stringeva. Il cardinale accennava già ad aver interpretato il silenzio. Il pover'uomo aprì la bocca e disse: «Si figuri!» Altro non gli volle venire. Cosa di cui non solo rimase avvilito sul momento, ma sempre poi quella rimembranza importuna gli guastava la compiacenza del grande onore ricevuto. E quante volte, tornandoci sopra e rimettendosi col pensiero in quella circostanza, gli venivano in mente, quasi per dispetto, parole che tutte sarebbero state meglio di quell'insulso «si figuri». Ma, come dice un antico proverbio, del senno di poi son piene le fosse. Il cardinale partì dicendo: «La benedizione del Signore sia sopra questa casa». Domandò poi la sera al curato come si sarebbe potuto in modo convenevole ricompensare quell'uomo, che non doveva essere ricco, dell'ospitalità costosa, specialmente in quei tempi. Il curato rispose che, per verità, né i guadagni della professione né le rendite di certi campicelli che il buon sarto aveva del suo non sarebbero bastate in quell'annata a metterlo in stato d'essere liberale con gli altri, ma che, avendo fatto degli avanzi negli anni addietro, si trovava dei più agiati del contorno e poteva fare qualche spesa in più senza dissesto, come certo faceva questa volentieri, e che del rimanente non ci sarebbe stato verso di fargli accettare nessuna ricompensa. «Avrà probabilmente», disse il cardinale, «crediti con gente che non può pagare». «Pensi, monsignore illustrissimo, questa povera gente paga con quel che le avanza della raccolta. L'anno scorso non avanzò nulla. In questo tutti rimangono indietro del necessario». «Ebbene», disse Federigo, «prendo io sopra di me tutti quei debiti e voi mi farete il piacere d'aver da lui la nota delle partite e di saldarle. Sarà una somma ragionevole, tanto meglio. E avrete purtroppo di quelli ancor più bisognosi che non hanno debiti perché non trovano credenza. Purtroppo si fa quel che si può, ma come arrivare a tutto in tempi di questa sorte? Fate che lui li vesta a mio conto e pagatelo bene. Veramente in quest'anno mi par rubato tutto ciò che non va in pane, ma questo è un caso particolare». Non vogliamo però chiudere la storia di quella giornata senza raccontare brevemente come la terminasse l'innominato. Questa volta la nuova della sua conversione l'aveva preceduto nella valle, si era subito sparsa e aveva messo per tutto uno sbalordimento, un'ansietà, un cruccio, un sussurro. Ai primi bravi o servitori, era tutt'uno, che vide, accennò che lo seguissero e così di mano in mano. Tutti venivano dietro con una sospensione nuova e con la suggezione solita, finché, con un seguito sempre crescente, arrivò al castello. Accennò a quelli che si trovavano sulla porta che gli venissero dietro con gli altri. Entrò nel primo cortile, andò verso il mezzo e lì, essendo ancora a cavallo, mise un suo grido tonante. Era il segno usato al quale accorrevano tutti quei suoi che l'avessero sentito. In un momento, quelli che erano sparsi per il castello vennero dietro alla voce e si univano ai già radunati, guardando tutti il padrone. «Andate ad aspettarmi nella sala grande», disse loro, e dall'alto della sua cavalcatura gli stava a veder partire. Ne scese poi, la menò lui stessa alla stalla e andò dove era aspettato. Al suo apparire cessò subito un gran bisbiglio che c'era. Tutti si ristrinsero da una parte, lasciando vuoto per lui un grande spazio nella sala. Potevano essere una trentina. L'innominato alzò la mano come per mantenere quel silenzio improvviso. Alzò la testa, che passava tutte quelle della brigata, e disse: «Ascoltate tutti, e nessuno parli se non è interrogato. Figliuoli, la strada per la quale siamo andati finora conduce nel fondo dell'inferno. Non è un rimprovero che io voglio farvi, io che sono avanti a tutti, il peggiore di tutti, ma sentite ciò che v'ho da dire. Dio misericordioso m'ha chiamato a mutar vita e io la muterò. L'ho già mutata. Così faccia con tutti voi. Sappiate dunque e tenete per fermo che son risoluto di prima morire che far più nulla contro la sua santa legge. Levo a ognun di voi gli ordini scellerati che avete da me. Voi mi intendete. Anzi, vi comando di non far nulla di ciò che v'è raccomandato. E tenete per fermo ugualmente che nessuno da qui avanti potrà far del male con la mia protezione, al mio servizio. Chi vuol restare a questi patti sarà per me come un figliuolo e mi troverei contento alla fine di quel giorno in cui non avessi mangiato per satollare l'ultimo di voi con l'ultimo pane che mi rimanesse in casa. Chi non vuole, Gli sarà dato quello che gli è dovuto di salario e un regalo in più. Potrà andarsene. Ma non metta più piede qui, quando non fosse per mutar vita, che per questo sarà sempre ricevuto a braccia aperte. Pensateci questa notte. Domattina vi chiamerò a uno a darmi la risposta. E allora vi darò nuovi ordini. Per ora ritiratevi, ognuno al suo posto. E Dio, che ha usato con me tanta misericordia, vi mandi il buon pensiero. Qui finì e tutto rimase in silenzio. Per quanto vari e tumultuosi fossero i pensieri che ribollivano in quei cervellacci, non ne apparve di fuori nessun segno. Erano avvezzi a prendere la voce del loro signore come la manifestazione di una volontà con la quale non c'era da ripetere, e quella voce, annunziando che la volontà era mutata, non dava punto indizio che fosse indebolita. A nessuno di loro passò neppur per la mente che, per essere lui convertito, si potesse prendergli il sopravvento, rispondergli come a un altro uomo. Vedevano in lui un santo, ma uno di quei santi che si dipingono con la testa alta, con la spada in pugno. Oltre il timore, avevano anche per lui, principalmente quelli che erano nati nel suo ed erano una gran parte, un'affezione come di uomini ligi. Avevano poi tutti una benevolenza d'ammirazione e alla sua presenza sentivano una specie di quella, dirò pur così, verecondia, che anche gli animi più zotici e più petulanti provano davanti a una superiorità che hanno già riconosciuta. Le cose poi che allora avevano sentito da quella bocca erano bensì odiose ai loro orecchi, ma non false né affatto estranee ai loro intelletti. Se mille volte se n'eran fatti beffe, non era già perché non le credessero, ma per prevenir con le beffe la paura che gliene sarebbe venuta a pensarci sul serio. E ora, al vedere l'effetto di quella paura in un animo come quello del loro padrone, chi più chi meno, non ce ne fu uno che non gli se ne attaccasse almeno per qualche tempo. S'aggiunga a tutto ciò che quelli tra loro che, trovandosi la mattina fuori della valle, avevano risaputa per i primi la gran nuova, avevano insieme veduto e avevano anche riferito la gioia, la baldanza della popolazione, l'amore e la venerazione per l'innominato, che erano entrati in luogo dell'antico odio e dell'antico terrore, di maniera che nell'uomo che avevano sempre riguardato, per così dire, di basso in alto, anche quando loro medesimi erano in gran parte la sua forza, vedevano ora la maraviglia, l'idolo di una moltitudine. Lo vedevano al di sopra degli altri, ben diversamente di prima, ma non meno, sempre fuori dalla schiera comune, sempre capo. Stavano adunque sbalorditi, incerti l'un l'altro e ognun di sé. Chi si rodeva, chi faceva disegni del dove sarebbe andato a cercar ricovero impiego, chi si esaminava se avrebbe potuto adattarsi a diventar galantuomo, chi anche, tocco da quelle parole, se ne sentiva una certa inclinazione, chi, senza risolver nulla, proponeva di prometter tutto a buon conto, di rimanere intanto a mangiare quel pane offerto così di buon cuore e allora così scarso, ed acquistar tempo. Nessuno fiatò. E quando l'innominato, alla fine delle sue parole, alzò di nuovo quella mano imperiosa per accennar che se n'andassero, quatti quatti, come un branco di pecore, tutti insieme se la batterono. Uscì anche lui dietro a loro, e piantatosi prima nel mezzo del cortile, stette a vedere al barlume come si sbrancassero e ognuno s'avviasse al suo posto. Salito poi a prendere una sua lanterna, girò di nuovo i cortili, i corridoi, le sale, visitò tutte le entrature e quando vide che era tutto quieto, andò finalmente a dormire. Sì, a dormire perché aveva sonno. Affari intralciati e insieme ruggenti, per quanto ne fosse sempre andato in cerca, non se n'era mai trovati addosso tanti, in nessuna congiuntura come allora. Eppure aveva sonno. I rimorsi che gliel'avevano levato la notte avanti, non che essere acquietati, mandavano anzi grida più alte, più severe, più assolute. Eppure aveva sonno. L'ordine, la specie di governo stabilito là dentro da lui in tanti anni, con tante cure, con un tanto singolare accoppiamento d'audacia e di perseveranza, ora l'aveva lui medesimo messo in forse con poche parole. La dipendenza illimitata di quei suoi, quel loro essere disposti a tutto, quella fedeltà da masnadieri sulla quale era avvezzo da tanto tempo a riposare, l'aveva ora smossa lui medesimo. I suoi mezzi li aveva fatti diventare un monte di imbrogli. S'era messa la confusione e l'incertezza in casa. Eppure aveva sonno. Andò dunque in camera, s'accostò a quel letto in cui la notte avanti aveva trovate tante spine, e vi si inginocchiò accanto con l'intenzione di pregare. Trovò infatti in un cantuccio riposto e profondo della mente le preghiere che era stato ammaestrato a recitar da bambino. Cominciò a recitarle e quelle parole, rimaste lì tanto tempo ravvolte insieme, venivano l'una dopo l'altra come sgomitolandosi. Provava in questo un misto di sentimenti indefinibile, una certa dolcezza in quel ritorno materiale alle abitudini dell'innocenza, un inasprimento di dolore al pensiero dell'abisso che aveva messo tra quel tempo e questo, un ardore d'arrivare con opere di espiazione a una coscienza nuova, a uno stato il più vicino all'innocenza a cui non poteva tornare. Una riconoscenza, una fiducia in quella misericordia che lo poteva condurre a quello stato e che gli aveva già dati tanti segni di volerlo. Rizzatosi poi, andò a letto e s'addormentò immediatamente. Anna Bonaiuto ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it. Per il podcast radio3.rai.it.